Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Su, muoviti, Lucky, non dobbiamo mollare adesso. Sono stanco e ho fame. Ho la coda gelata e il naso gelato, le orecchie gelate e i piedi gelati. Che tenerezza, buongiorno da Nicoletta. Secondo i meteorologi siamo entrati nella settimana più fredda degli ultimi 27 anni. Non esistono condizioni meteo sfavorevoli, esistono uomini che si arrendono. Bill Bowerman, allenatore della squadra universitaria di atletica dell'Università dell'Oregon. Ecco perché la nostra parola d'ordine oggi è resistere. La primavera arriverà. Intanto saluto subito il dottor Ciro Vestita, medico dietologo all'Università di Pisa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, non tutto il freddo viene per nuocere. Ma assolutamente no, guardi, io direi diamo il benvenuto a questo freddo, finalmente c'è un po' di freddo. Questo freddo, se ben pilotato, può fare solo bene alla nostra salute. Partiamo dall'agricoltura, se c'è un po' di gelo non avremo in primavera i meli, i peri e altri frutti assediati da pidocchi e altri insetti, perché questo freddo li ucciderà, quindi saranno frutti più sani. Per quanto riguarda noi, noi siamo assediati dagli acari, l'80% dei bambini è allergico agli acari. Questi creano situazioni minimali come prurito, fastidio, starnuti, eccetera, situazioni gravi quali asma, eccetera. Bene, se in questi giorni, verso l'ora di pranzo, ariamo un po' la nostra casa e mettiamo soprattutto al freddo le lenzuola dove dorme il bambino, le coperte, soprattutto i piumoni, i cuscini dove i bambini dormono, noi in mezz'ora possiamo sterminare letteralmente gli acari. Quindi un po' di freddo sia il benvenuto. Dottore, in questi giorni io leggo sui giornali, ci sono tutte le raccomandazioni, mettetevi la sciarpa, il cappello, i guanti, le stesse cose che si dicono d'estate, in cui i medici, forse intervistati da noi, raccontano che è meglio non fare l'attività fisica proprio all'una o a mezzogiorno sotto il sole cocente, e non mangiate una matriciana sotto il solleone. Ecco, insomma, sicuramente i consigli di buon senso valgono, ma io so che la natura, come sempre, che genera Rosa, ci mette a disposizione degli alimenti che ci aiutano a prendere il buono dal freddo. Lei anticipava che il freddo aiuta anche alcuni ortaggi che proprio dal freddo risultano. Ad esempio, in questo periodo sotto la neve noi non troveremo quasi nulla, però troviamo il cavolo nero. Il cavolo nero è un alimento che con lo shock termico di questi giorni sarà ancora più buono, più croccante, più salutare, più ricco di antociani. Ancora nella valle di Catania, in Sicilia, lo shock termico servirà a crearci delle sanguinelle ancora più buone, queste arance con i pigmenti rossi che hanno un valore nutrizionale maggiore, soprattutto anticancro, rispetto alle arance normali. E poi guardi una cosa, signora, il bambino, l'anziano si ammalano quando respirano un'aria viziata, se si va al circolo, se si va al cinema, se si va il sabato a girare nei supermercati, nei grandi centri commerciali dove c'è aria riciclata, il bambino non si ammalerà mai se è ben coperto e ben tappato sotto la pioggia, sotto la neve, col vento forte. Quando portiamo i nostri ragazzi a sciare a 3000 metri, tornano e sono indenni. Quando vanno a una festa di amici dove l'aria non è stata cambiata, tornano con la febbre. Quindi benvenuto sia un po' di freddo. Grazie al professor Ciro Vestita per essere stato con noi. Buon freddo allora, professore. Grazie. Arrivederci. Resistiamo quindi. Le difficoltà rafforzano la mente, così come il lavoro irrobustisce il corpo. Seneca. E con questa massima presento il dottor Franco Confalonieri, che da sempre prova ad allenarci, a vincere la pigrizia e a resistere alla fatica. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. È un po' difficile arrivare dopo questa citazione di Seneca, che peraltro è molto correlata proprio a questi diversi aspetti della resistenza. Dottor Confalonieri, c'è una resistenza dei muscoli, del cuore, dei polmoni, insomma una resistenza fisica, ma c'è anche una resistenza mentale. È più facile allenare la resistenza fisica, quindi la prestazione sportiva, o la resistenza alle difficoltà quotidiane e quindi la nostra la nostra prestazione nella vita? Ma questa è una bella domanda. Me l'ero preparata, eh? Diciamo che partirei da una brevissima considerazione, comunque, che sia rispetto alla costruzione della resistenza fisica, sia rispetto alla capacità di resistere in tempi così difficili, c'è una predisposizione individuale, c'è qualcosa di scritto nel DNA che non è facilmente modellabile, quindi ciascuno di noi è più o meno adatto a diventare un grande atleta di resistenza piuttosto che un uomo, un professionista capace di gestire gli stress quotidiani più o meno importanti cui viene sottoposto. E questo va accettato, come ci accettiamo alti, bassi, belli, brutti, con gli occhi azzurri piuttosto che con gli occhi marroni. E questo credo sia un concetto importante, dobbiamo accettarci con i nostri limiti e con le nostre potenzialità. Ciò detto, sicuramente è più facile costruire la prestazione sportiva in termini di resistenza. Nonostante nella prestazione sportiva ci sia una componente mentale molto molto importante, soprattutto certo, nella prestazione di resistenza, quindi interagiscono i due aspetti, sicuramente la resistenza è la qualità più allenabile e soprattutto più allenabile nel tempo, nel senso che noi invecchiando, cioè dai 21-22 anni in poi, perdiamo in forza, perdiamo in velocità, ma tutto sommato adeguatamente allenati non perdiamo in resistenza. Quindi la prestazione sportiva correlata al nostro potenziale genetico è allenabile. La capacità di resistere alla difficoltà quotidiana è anche allenabile, più difficilmente allenabile. Volevo sottolineare un'altra differenza che io sto vivendo anche personalmente in questa fase della mia vita, che credo sia interessante forse per molti che ci ascoltano, e cioè quando noi prepariamo una prestazione sportiva abbiamo un periodo di allenamento che è ben definito, quindi sappiamo per esempio che dovremo fare molta fatica per 4 mesi e poi raccoglieremo i frutti della nostra fatica con la gara che siamo andati a preparare, la maratona, il triathlon, la gran fondo di ciclismo o quant'altro. In ambito invece della quotidianità lavorativo familiare purtroppo manca il termine, quindi dobbiamo quotidianamente combattere, costruire la nostra resistenza senza sapere quando questo ciclo di allenamento o questo ciclo di lavoro finirà. E questa credo sia una differenza fondamentale, perché questa è la grande difficoltà. Il famoso logorio della vita moderna. Non sapere dov'è l'arrivo, che invece è fondamentale per chi costruisce una prestazione sportiva. Da questa riflessione possiamo pensare alle domande per coinvolgere i nostri ascoltatori, che possono chiamarci all'800 24 00 24. Una domanda ce l'ho io, molto semplice. Che è: qual è la frequenza cardiaca per allenare la nostra resistenza? Questa è la domanda che io vi faccio, chiamate con la risposta giusta all'800 24 00 24 e potrete ricevere a casa un libro che è molto in linea con quello di cui oggi parliamo, Resistenza declinata nei suoi vari significati. È un libro di Pietro Trabucchi che si intitola Perseverare è umano. 800 24 00 24, potete iniziare sin d'ora. È possibile che ci siano anche altri libri che peschiamo direttamente dalla nostra piccola libreria di Essere Benessere per gli ascoltatori che ci scrivono al 349 238 6666 oppure ci mandano la risposta via Facebook. Ma questo non ve lo assicuro, devo mettermi d'accordo con Laura Vanossi, che vedo che non mi sta guardando. Dottor Confalonieri, intanto io le ho dato tempo per pensare alla domanda per i nostri ascoltatori, attraverso la quale coinvolgere, farci aiutare proprio oggi nelle nostre riflessioni degli ascoltatori. Quindi quello che io chiederei è proprio questo: innanzitutto, come avete allenato nel tempo o nella vostra vita la resistenza alla fatica, quindi come avete costruito le vostre prestazioni negli sport di resistenza, ma soprattutto quali sono state le vostre strategie o quali sono le vostre strategie per resistere in un tempo così difficile come questo, così le mettiamo a disposizione di tutti e ne discutiamo, ed infine creiamo una sintesi fra queste due realtà: essere sportivi che praticano uno sport di resistenza, quindi capaci di soffrire e capaci di costruirsi un obiettivo e di raggiungerlo, vi aiuta nella vita quotidiana, nel lavoro, a resistere alle difficoltà che tutti oggi stiamo vivendo? Perché la resistenza non è solo fatta di muscoli e di fiato, ma conta, giustamente, anche la testa. In In alcune parti del mondo vengono organizzate corse uomo contro cavallo. L'animale è senza dubbio muscolarmente più forte e molto più veloce, eppure sulla lunga distanza l'uomo prevale. Il suo vantaggio sta in una gestione dello sforzo decisamente migliore su base motivazionale. L'evoluzione umana ha portato allo sviluppo di aree specializzate che mantengono attiva la motivazione verso l'obiettivo nonostante le difficoltà e la sofferenza presente. L'evoluzione umana ha portato allo sviluppo di aree specializzate che mantengono attiva la motivazione verso l'obiettivo nonostante le difficoltà e la sofferenza presente. Le aree prefrontali sono aree del nostro cervello piuttosto complesse. Servono sostanzialmente a tre cose. Regolano il funzionamento dell'attenzione, contribuiscono a regolare le risposte emotive e regolano i comportamenti connessi all'autocontrollo e all'espressione della volontà. La ricerca dimostra che queste aree si attivano e possono crescere in risposta a determinati stimoli. Ogni volta che esercitiamo uno sforzo di volontà, le alleniamo. E in linea con noi abbiamo il professor Pietro Trabucchi, psicologo dello sport, professore all'Università di Verona in psicologia dello sport e autore di Resisto dunque sono, di cui abbiamo già parlato più volte. Intanto buongiorno professore, sta bene? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno a lei e buongiorno anche a Franco. Ma sì. Sì, sto tutto bene. Resiste. Sì, fa abbastanza freddo, ma resistiamo, sì. E poi autore di Perseverare umano, come aumentare la motivazione e la resilienza negli individui e nelle organizzazioni, e la lezione dello sport, di cui in fondo stiamo parlando oggi. Professor Trabucchi, dal punto di vista professionale lei insegna alle persone a resistere alla fatica quotidiana, no? Dal punto di vista sportivo però ha compiuto grandi imprese proprio legate alle resistenze, segue molti campioni nell'ambito degli sport estremi. Vogliamo provare a fare un parallelo, ma anche sottolineare le differenze tra la costruzione della resistenza fisica e quella mentale, e quanto e come allenare la resistenza fisica può aiutarci in qualche modo a resistere al logorio della vita moderna, come aveva appunto suggerito Franco Confalonieri? Sì, beh, intanto un po' di pudore a definire le mie grandi imprese. Comunque, diciamo, io credo che alla base della capacità di resistere in senso sportivo, in senso fisico, oppure alla base della capacità di portare avanti degli obiettivi nonostante le difficoltà e i problemi quotidiani, sotto certi aspetti non ci sono delle grandi differenze, nel senso che il comune denominatore è il fatto della capacità umana straordinaria di mantenere elevata la motivazione, no? Nell'atleta che sta facendo uno sforzo lunghissimo, di lunghissima durata, che sta soffrendo, la difficoltà è proprio i segnali che il corpo continua a mandargli, sono segnali che riguardano magari il metabolismo, che riguardano lo sforzo, che riguardano tutta una serie di parametri interni e che gli chiedono di fermarsi, no? Perché sì, è un imperativo per gli esseri viventi, quello in un certo senso di risparmiare le energie se veramente non è questione di sopravvivenza. Questo stesso, diciamo, questo stesso atteggiamento è in realtà quello che abbiamo quando una persona si trova a dover affrontare dei problemi che non sono legati al funzionamento fisiologico, ma che sono di relazione, che sono legate a delle emozioni che prova, per esempio di frustrazione perché non riesce a ottenere un certo risultato, perché gli pare che le cose che deve fare siano particolarmente difficili o impossibili da ottenere, in qualche modo mantiene l'impegno, no? Allora in questo senso credo che noi spesso ce ne dimentichiamo, abbiamo un vantaggio enorme tra tutte le specie viventi, che è quello di avere veramente una motivazione che ha delle basi evoluzionistiche, biologiche nuove rispetto alle altre specie, e quindi prima citavano un pezzo del libro rispetto al cavallo, il cavallo non ha questa capacità così fine di andare avanti nonostante le difficoltà, a un certo punto le subisce, l'uomo riesce a perseverare nonostante delle condizioni difficilissime, no? Sì, nel suo libro, fa degli esempi molto belli, è un libro molto interessante da questo punto di vista, perché ti porta comunque a sentire concretamente come in qualche modo tu sei artefice, no? del tuo destino, e soprattutto quanto sia importante togliere, liberarci da quei condizionamenti mentali che ci spingono a dire non ce la faccio. Tra l'altro, il concetto della resilienza, che noi citiamo spesso anche in trasmissioni in più occasioni, perché abbiamo oggi in modo particolare vogliamo fare un parallelo tra lo sport e la vita, vorrei andare a sentire una breve definizione perché entra proprio nel merito, tratta dal primo libro di Pietro Trabucchi, Resisto, dunque sono, andiamo. Si definisce resilienza la capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontrano. È l'atteggiamento contrario di chi, di fronte ad avversità anche piccole, si arrende e perde la speranza o la motivazione. Essere resilienti di fronte alle avversità rappresenta quasi sempre la norma negli esseri umani. Anche se la resilienza è una dotazione di base negli esseri umani, essa può essere ulteriormente appresa e migliorata nel corso del ciclo di vita. Tutti d'accordo, professor Trabucchi? Ma non so se tutti sono d'accordo su questo. Io credo che la resilienza sia comunque un concetto che sta tornando di grande attualità, no? Nel senso, oggi le persone hanno molta paura perché guardano al futuro, è un futuro incerto, c'è la crisi, lo sappiamo tutti, lo spread, eccetera. Ecco, io in un certo senso invito a guardare indietro invece, cioè il cammino che ha fatto l'umanità. Se noi siamo arrivati ad essere qua oggi è perché i nostri predecessori hanno superato con successo, adattandosi al contesto e e ambienti nuovi, difficoltà terrificanti che al giorno d'oggi sono assolutamente impensabili, no, da proporre. Mi riferisco a migrazioni, carestie, guerre. Quindi ne abbiamo viste delle di peggio, colori, di tutti i colori. Secondo me bisogna anche secondo partire, me. Io sì, sono assolutamente consapevole che siamo attrezzati per superare questa e altre crisi. Dobbiamo solo tirar fuori le risorse che abbiamo già dentro. Alessio da Grosseto, buongiorno, 800240024, buongiorno a lei. Buongiorno. Ma io volevo porre una domanda, professor Trabucchi. Io ho circa 4 anni che pratico triathlon, sì. Anche su lunghe distanze, insomma distanze mezzo Ironman e Ironman, e ho notato però che, diciamo, dal punto di vista anche psicologico, quando affronto queste gare, nonostante, diciamo, ormai anni di allenamento, in realtà Alessio l'abbiamo perso, nonostante anni di allenamento, ma Stefano, buongiorno da Roma, poi Luca da Padova. Buongiorno. Buongiorno Stefano. Dunque, io ero stato attratto da... Lei ha resistito di più, vede, ha resistito di più rispetto ad Alessio, è stato aiutato da una linea che ha tenuto e va in onda, è così la vita. Credo che ho fatto un allenamento più costante. Com'è carino. Allora Stefano, mi racconti? Dunque, io veramente volevo dare la risposta rispetto al quesito che aveva posto sulla frequenza cardiaca, sì, per l'allenamento, dove c'è di solito considerato la frequenza cardiaca massima, che si calcola con una formuletta che è anche scritta normalmente nelle macchine di allenamento, anche se tuttavia ognuno dovrebbe tenere in considerazione il proprio personale metabolismo, abitudine, soprattutto allenamento, cioè non deve esserci secondo me uno standard. Sì. La formuletta che si dà è 220 meno l'età, e quello dovrebbe indicare la frequenza cardiaca massima che non si deve superare. In realtà c'è un'altra formula che secondo me è più corretta, che è quella di un giapponese, che è Tanaka, un po' più complessa però più precisa, cioè la frequenza cardiaca massima dovrebbe essere 208 meno il prodotto di un coefficiente che è 0,7 moltiplicato l'età. Mamma mia Stefano, di complicato. Resti con noi, andiamo a sentire i mercati e poi il meteo, perché sennò scappa la voglia di allenarsi se uno deve essere così capace a fare tutti questi conti. Ma Stefano ci aiuterà, il dottor Confalonieri rimane con noi. 800240024, alleniamoci a resistere, ce l'abbiamo sempre fatta. Essere e benessere. Resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del piano. Eccoci tornati insieme, oggi la parola è resistere, non è, l'abbiamo iniziata a declinare con il freddo può essere anche un'occasione, ha anche i suoi lati positivi, ma noi oggi parliamo in modo molto più approfondito della resistenza, come allenare al resistere alla vita e anche come allenare la nostra resistenza fisica. La domanda di oggi è: qual è la frequenza cardiaca per allenare la nostra resistenza? Noi abbiamo un tecnico in linea con noi, Stefano da Roma. Stefano, c'è ancora, vero? Sì, ci sono. Che mi fa fare i calcoli difficili. Dottor Confalonier, Stefano voleva aggiungere qualcosa, eravamo andati anche in Giappone con lei, giusto? Sì, per la formula di Tanaka, no, volevo concludere, sì. Nel senso che secondo quello che comunque poi le ultime tendenze, la corretta frequenza cardiaca per fare un allenamento è chiaramente non deve essere quella massima si deve calcolare per considerare quella utile per allenarsi. In realtà ci sono almeno tre fasce di allenamento che devono essere considerate, che sono l'allenamento moderato, che serve per bruciare i grassi e rinforzare il cuore e comunque per avvicinarsi alla zona aerobica. Poi l'allenamento aerobico, che invece è tipico, diciamo, degli atleti, e l'allenamento anaerobico, che serve normalmente per far metabolizzare. Per metabolizzare gli acidi lattici, quindi normalmente questo è l'allenamento occasionale che fanno gli atleti che fanno per esempio sport pesanti. Queste frequenze sono, per la zona moderata, dal 60 al 70% della frequenza massima, per la zona aerobica dal 70 all'80%, e invece per la zona anaerobica, che è appunto questo allenamento pesante, dall'80 al 90%. Allora, a Stefano forse bisogna, professor Trabucchi, scriva altri libri, perché un libro forse non gli basta, non ne ha qualcun altro? Per Stefano. Ma adesso sto provvedendo, si metta sotto a mandargli qualcosa. Perché anche se non è il mio campo, quella è più Ma infatti il dottor Confalonieri è rimasto senza parola. Dottor Confalonieri. No, dobbiamo assegnarlo per forza, nel senso che molti hanno risposto appunto indicando la frequenza cardiaca massima con le sue diverse modalità di calcolo, però noi non chiedevamo la frequenza cardiaca massima, ma chiedevamo appunto la frequenza cardiaca più adatta ad allenare la resistenza. L'ha definita, direi con la massima precisione, il nostro ascoltatore, quindi ha sicuramente guadagnato il libro su un piano. Arrivato l'applauso. Sì, perché è stato piano molto bravo. Un po' più pratico. Io ripeto un consiglio che già abbiamo dato altre volte: se volete allenarvi per migliorare la vostra resistenza, calcolate la vostra frequenza cardiaca a riposo e la incrementate del 50%. Un esempio banalissimo: se a riposo abbiamo 80 di frequenza, la metà di 80 è 40, 80 più 40 uguale 120, ecco una frequenza cardiaca di riferimento per allenare la resistenza. Soprattutto un calcolo molto semplice, che riesco a fare anch'io, perché giustamente lui si tara su di me, cari amici. Abbiamo Luca che ci chiama da Padova. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno, grazie, complimenti. Io volevo fare una domanda, però una premessa prima. È da 4 anni che faccio gare di trail running di lunga distanza, 100-150 km. Ecco. E adesso vorrei darmi invece alle gare 24 ore di mountain bike. Volevo chiedere, siccome ovviamente in allenamento non si fanno e non si possono fare gare così lunghe, c'è un modo per capire quando si è pronti, un meccanismo per capire quando si è pronti a queste gare? Sì Luca, però volevo chiederle, lei che si impegna in queste sfide, devo dire quasi estreme, che cosa le ha aggiunto nel modo di prendere la vita? Si è allenato anche un po' nella resistenza alla vita? Beh, moltissimo, anche se probabilmente, siccome io mi alleno effettivamente anche poco, ho già una capacità di resistenza mentale che su queste gare sicuramente è molto importante. Forse anche più della resistenza fisica. Più del muscolo può la testa. Secondo me su queste gare sicuramente. Dottore Confalonieri? Sì, sono sostanzialmente d'accordo. Quando è che è pronto, Luca? Da un punto dell'allenamento direi che comunque ci vuole una base settimanale importante, perché la resistenza di fondo va allenata, e poi almeno un allenamento specifico alla settimana che abbia una durata di 6-7 ore, giusto per abituare determinati metabolismi al tipo di sforzo che troverà in gara. Poi tutto il resto è legato ovviamente a quella componente mentale e motivazionale che ci differenzia dal cavallo e di cui parlava prima nel suo libro. Esatto. Alberto dalla provincia di Varese, e poi abbiamo ripescato Alessio da Grosseto. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io ho detto alla signorina che ero sul tappeto. Lei mi ha detto di rimanerci. Era abbastanza in linea con la trasmissione. E c'è rimasto. Ma ci sono rimasto, ho detto però rallentato, quando non li faccio ridere. E volevo dire che è molto vero il parallelismo che c'è tra lo sforzo di chi allena il corpo, soprattutto la resistenza e la vita. Ho iniziato a correre forse per quello. Quando sul lavoro ho incontrato difficoltà, ci correvo su e dicevo sostanzialmente: come riesco a correre, riesco anche a battere questo ostacolo. E funziona, per la testa è importantissimo. Io sono convinto che l'atleta è il 50% se non di più testa, anche quelli ai massimi livelli, dove vediamo atleti con un fisico eccezionale cadere, nel senso di non farcela, i vari Maradona che hanno fatto sciocchezze forse, e atleti magari meno prestanti fisicamente con una testa eccezionale, che io invidio molto, perché sono proprio forti. E questa è un po' la mia esperienza. Ma anche noi invidiamo un po' lei, Alberto, perché in quello che lei ci racconta c'è una grande saggezza. Professor Trabucchi, in fondo Alberto è un testimonial del suo libro. Sì, indubbiamente. Tra l'altro credo che se ha portato il tappeto al lavoro ha realizzato veramente il massimo del connubio tra sport, allenamento e vita, no? Quindi mi ha fatto molto piacere sentirlo. No, posso aggiungere solo una cosa. In effetti, correttamente il dottor Confalonieri all'inizio diceva la differenza tra il mondo dell'allenamento sportivo e il mondo della vita, no? Allora, nella vita è chiaro, non c'è un momento di allenamento, siamo sempre in gara. Sì. E non, questo è assolutamente vero. Mi viene da pensare, e per molti è così, lo confermava la testimonianza prima dell'ascoltato, del nostro amico, sì, sul tappeto, Luca. È lo sport amatoriale che diventa il terreno per allenarsi, per creare una riserva di resilienza che poi viene spesa nella vita di tutti i giorni. Cioè, questo è il segreto. È un po' una novità questa cosa qui, perché sui benefici fisici dello sport siamo d'accordo tutti, è una cosa ormai risaputa, però il fatto che anche da un punto di vista mentale, sugli atteggiamenti, sulla personalità, le persone possano beneficiare dello sport non è una conoscenza così ancora consolidata, la stiamo scoprendo adesso. Dottor Confalonieri, ho Alessio da Grosseto e poi le do la parola. Posso aggiungere due cose rapidissime, proprio perché si legano al discorso di Trabucchi. Due consigli mediati dalla teoria dell'allenamento e quindi dalla costruzione della resistenza nello sport, che secondo me possono essere molto utili nella vita di tutti i giorni. Il primo: diamoci comunque obiettivi intermedi, così come fa l'atleta. Non guardiamo a lungo raggio, ma diamoci degli obiettivi a breve scadenza. Il secondo: l'atleta ha bisogno del riposo. Anche noi nella nostra vita, se anche è un momento molto difficile, come è per tanti di noi adesso, assolutamente dobbiamo garantirci degli spazi, uno, due giorni, qualche ora, nei quali recuperare. Questa è la garanzia di resistere, resistere, resistere, così come diceva Borrelli nell'inciso che abbiamo messo all'inizio di questa parte della trasmissione. Carmela Lauricella mi sta dicendo che è il tempo della viabilità, ma è anche tempo di sentire Alessio da Grosseto. Se è rapido, Alessio, se no sì, qua mi menano. Sì. Brevissimo, la mia esperienza forse è un po' in controtendenza rispetto a quello che ho sentito, perché io faccio triathlon da 3 anni, sì, e ho fatto anche lunghe distanze. Dopo una di queste gare, un mezzo Ironman, ho sviluppato una sorta un po' di rigetto sia psicologico, che poi si è tramutato anche in un rigetto fisico rispetto a queste fatiche, ecco, sì, perché insomma sono molte ha ore fatto una di sorta di indigestione. Fermiamo, sì, posso tradurre così, che così do la strada 800240024, torniamo anche per parlare di resistenze che non sono sempre a nostro vantaggio. Restate. Essere e benessere. Resistere, ma farlo con testa, con una certa anche gradualità. Esatto, questa è un po' la chiave per rispondere anche ad Alessio. Probabilmente lui ha preteso troppo, troppo in fretta e il suo organismo, inteso in senso lato, mente più corpo, si è ribellato a quanto richiesto e quindi adesso resiste ad ulteriori sollecitazioni di questo tipo con una reazione che è di nausea, di rifiuto, di disgusto. Dobbiamo salutare il professor Pietro Trabucchi, ringraziandolo per essere stato con noi. Grazie professore. Grazie, grazie a voi. Ricordo il titolo del libro: Perseverare è umano, come aumentare la motivazione e la resilienza negli individui e nelle organizzazioni. La lezione dello sport, Corbacci Editore. Volevamo parlare anche di un'altra resistenza. Noi finora abbiamo dato alla resistenza un significato positivo, ma non è sempre così. Sto pensando ad esempio alla resistenza all'insulina, che è il difetto chiave del diabete di tipo 2. In linea con noi è caduto perché me l'avevano dato. Vabbè, volevo farvi questa sorpresa e comunque siamo in attesa di collegarci col professor Carlo Giorda, che è presidente dell'Associazione Medici Diabetologi. Tra poco lo recupereremo. Intanto ho la possibilità di dare la linea ad Antonio da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Antonio, intanto che il professor Giorda non ci sente, parliamo di noi. Sono in mezzo alla bufera di neve a Bologna, sto tornando a Padova, è una roba incredibile, quindi ho sentito la trasmissione. Io sono un ciclista solitario, ho girato tutta l'Europa, poi sono andato in America e all'inizio ho iniziato a passi brevi, no? Giri da 4, 5, 6, 7 giorni per arrivare, diciamo, a giri da 30, 35 giorni in solitaria. In realtà all'inizio è stata una sfida, diciamo, contro me stesso, il superamento dei miei limiti mi interessava, no? Sì. Poi una volta che ho scoperto questa capacità, che ho maturato da, diciamo, da 45 anni in su, io ne ho 57, ho cominciato veramente anche a applicare, diciamo, questo superamento dei limiti alla vita quotidiana. Io ogni volta che torno da un ride in solitaria, l'anno scorso ho fatto l'America da costa a costa, no? 5.000 chilometri, torno con una carica incredibile, con una forza, e la vita, diciamo, non mi fa più paura. Ricomincio ogni anno, diciamo, con questa preparazione, con questa carica che mi porto dentro, poi ad agosto le mie ferie le faccio sulla strada, diciamo, in bicicletta in solitaria, e da lì, diciamo, attingo forza per la vita quotidiana, che chiaramente io mi occupo di vendite, che è fatta di fatica, di sconfitte, e a fronte di ogni sconfitta, proprio ritornando con la mente magari ai momenti più difficili, quando non sai se proverai a dormire, dove arriverai, oppure trovi tutto pieno, quando buchi due volte in un giorno e non sai più come uscirne, spacchi qualche pezzo della bicicletta, devi mettere in esercizio la mente per riuscire veramente a trovare soluzioni e soprattutto trovare quella fiducia in te stesso che ti aiuta ad essere ottimista. È una palestra. Antonio, perché lei nella prossima giro in solitaria non appunta tutte le sue emozioni, guardi, sensazioni, e poi ci scrive un libretto? Io ho un mio sito, diciamo, dove registro negli ultimi 5 anni, ho fatto un diario di bordo, no? Dove ogni giorno registro le emozioni, le sensazioni, quello che provo, come si dice, quello che la mente mi detta in solitaria, all'interno di una stanzetta di un hotel, dove mi trovo, no? Oppure a pranzo. Magari può essere uno spunto. Si inizia da poco. Antonio ha iniziato con piccoli giretti, certo. Non dico dell'isolato, ma qua è con gradualità è riuscito a trarre, a vivere delle esperienze anche forti, che sono una sorta di allenamento nel quotidiano. Ma io in linea al professor Giorda. Buongiorno professore. Buongiorno. A proposito di resistenza, abbiamo insistito e l'abbiamo ritrovata, ma io vorrei parlare rapidamente con lei della resistenza all'insulina, che è il difetto chiave del diabete di tipo 2, perché mi piaceva dare anche una lettura non sempre positiva della resistenza. Esatto, la resistenza insulinica è il difetto che spiega l'insorgenza del diabete tipo 2. E che cos'è? Detto in parole semplici, è il fatto che l'insulina funziona meno. In queste persone ha un effetto minore, quindi riesce meno a metabolizzare lo zucchero e i grassi, e quindi queste persone tendono a sviluppare un innalzamento della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi. Questa condizione è detta insulino resistente. Abbiamo l'identikit di una persona che potrebbe maturare questo tipo di resistenza, vero? Certo, sono le persone in genere sedentarie, sono persone che tendono a ingerire ogni giorno un po' più di calorie del dovuto e hanno delle caratteristiche molto spesso facili da riconoscere. La più tipica di tutte è il sovrappeso viscerale, cioè tendono ad avere la pancia. I soggetti che hanno un accumulo di grasso, soprattutto a livello addominale, sono quelli in genere più insulino resistenti. Quindi è meglio ogni tanto fare un controllo. A partire, esatto. L'OMS dice a partire dai 45 anni, ma se siete sedentari, sovrappeso, avete superato gli ANTA, professore? Certo, bisogna fare una glicemia o una curva da carico, non solo, anche se si è avuto un evento cardiovascolare o se si è una donna, se si è partorito un figlio macrosomico, cioè che pesava più di 4 kg. Ci sono una lista di condizioni che certo. Si possono chiedere al proprio medico curante che fanno sì che lo screening, cioè la ricerca del diabete non diagnosticato, vada fatta più precocemente. Grazie professor Giorda per essere stato con noi. Ricordo che è presidente dell'Associazione Medici Diabetologi e direttore della struttura complessa malattie metaboliche e diabetologia dell'ASL Torino 5. Grazie al professor Giorda. E c'è, dottor Confalonieri, un'altra resistenza che non è salutare, è l'antibiotico resistenza. Ne parliamo con la dottoressa Annalisa Pantosti, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, l'uso degli antibiotici ha contribuito sicuramente al progresso della medicina, diminuendo la letalità delle malattie infettive batteriche, anche le complicanze infettive, magari legate a traumi, ferite, interventi. Però il successo degli antibiotici è stato parzialmente offuscato dalla capacità dei batteri di diventare resistenti. Si sono fatti furbi, insomma. Beh, certo, la resistenza ancora una volta è buona per chi ce l'ha, cioè è buona per i batteri, ma è pessima per noi. Certo. E i batteri sono riusciti a avere delle armi contro gli antibiotici e quindi a sopravvivere agli antibiotici. Per noi questo è una cosa molto grave, perché vuol dire che ci sono alcune infezioni batteriche oggi purtroppo che non sono più così trattabili dagli antibiotici come lo erano in passato. I batteri sono diventati resistenti agli antibiotici cambiando, diciamo, un po' le loro caratteristiche genetiche, con un meccanismo di selezione naturale, e hanno acquisito delle capacità nuove, quella di distruggere gli antibiotici, di essere completamente immuni, diciamo così, da questi antibiotici. Quindi usiamoli solo quando è necessario, e a dirlo e deve essere sempre solamente il nostro medico curante, quindi vietate le cure fai da te, dottoressa. Certo, questo, diciamo, è un po' il messaggio. I batteri diventano resistenti perché l'uso degli antibiotici in questi ultimi anni è diventato veramente enorme, dobbiamo usarli in maniera parsimoniosa, quindi dobbiamo usarli solo quando sono veramente necessari, e a stabilire questo è il medico, che stabilisce anche i modi e i tempi in cui gli antibiotici devono essere, il tipo di antibiotico, i modi e i tempi in cui gli antibiotici devono essere presi. Sicuramente non servono per l'influenza stagionale. Certo, questa è una cosa che non è a tutti chiarissima, cioè gli antibiotici sono dei farmaci che sono capaci di uccidere solamente i batteri e non i virus, e la maggior parte delle malattie stagionali, raffreddore comune e l'influenza, sono infezioni virali, quindi gli antibiotici non hanno nessuna efficacia verso queste infezioni, a meno di complicanze, per cui è sempre il medico a giudicare. Ringrazio la dottoressa Pantosti e vi invito a visitare il sito antibioticoresponsabile.it. Sappiamo che l'influenza alle porte, ecco, chiariamoci bene le idee, non usiamo cartucce inutili che possono ritorcerci contro. Dottoressa Pantosti, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata anche al dottor Confalonieri, che è venuto a trovarci. Io vi aspetto sempre domani dopo il GR delle 11. Carmelo Lauricelli regge la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Devo dire di scaricare la puntata, potete riascoltarla in podcast, potete venire sul nostro profilo Facebook, insomma, fate un po' quello che volete, ma domani tornate, perché noi ci sentiamo dopo le 11:00.